E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Summertime di Elisabetta Fiorito. Buongiorno e bentornati a Summertime. Noi abbiamo qui in trasmissione oggi Stefano Bollani, uno dei grandi pianoforti jazzisti italiani, e che però stasera sarà alla Versiliana insieme ai Visionari. Quindi non suoni solo tu, Stefano, questa sera. Cosa succede? Ebbene no, si tratta del mio quintetto, così anzi colgo l'occasione che li nomino: c'è Mirko Guerrini al sax, Nico Gori al clarinetto, Cristian Caccanini alla batteria e Stefano Segni al contrabbasso. Ed è un gruppo che suona musica originale, non solo mia ma anche scritta da loro. È un gruppo che esiste da un po' di anni, abbiamo inciso già 2 dischi. Ecco, che tipo di musica fate? Proprio jazz oppure un po' un misto, mi sembra? Anche loro sono un pochino più poliedrici, diciamo? Ma sai, io amo collaborare con musicisti eclettici e che non si fanno problemi di genere, per cui insomma noi diciamo che facciamo jazz, perché il jazz ormai non è più un genere musicale ma è un linguaggio. Di fatto noi improvvisiamo tantissimo usando i nostri brani come spunto per fare un concerto diverso ogni sera. Cerchiamo di divertirci e di conseguenza possibilmente divertire anche quelli che vengono ad ascoltare. Ecco, qual è la differenza tra un musicista jazz e un musicista invece pop, rock? Quello che dici tu, l'improvvisazione? No, perché io mi sono sempre chiesta, io sono molto profana riguardo al jazz, sì. Allora ogni volta l'ascolto, mi diverte, mi piace, però capisco che per gli appassionati è qualcosa di più. Sai, come in tutte le cose, credo, quando tu entri anche nei meccanismi, quindi capisci come ragionano, come si muovono i musicisti sul palco, quelli che stai ascoltando, ti godi non solo il risultato ma ti godi anche il procedimento. Generalmente appunto la gente si perde proprio il fatto che stiamo davvero improvvisando lì sul momento, e che quindi quel concerto è unico e che quindi può anche non funzionare qualche cosa, perché stiamo cercando. Quindi la gente viene a vedere delle persone che cercano un'intesa e cercano di costruire qualcosa lì sul momento, non vengono a vedere il concerto preconfezionato, che di solito è tipico del pop, con la scaletta ben precisa di successi, con quegli arrangiamenti, quei testi, insomma è tutta un'altra cosa, ecco. Tu quindi hai scelto questo tipo di musica anche perché così ti senti un po' più libero? Ma guarda, sarebbe più facile dire che ha scelto me, nel senso che io sin da ragazzino, verso i 12 anni, ho sentito un'attrazione enorme per la storia del jazz. E soprattutto quando ho capito, sì, che voleva dire libertà, che voleva dire prendere qualsiasi musica e farla propria. E da quanto tempo suoni? Quando hai iniziato a suonare? Da piccolissimo, no? A 6 anni, praticamente appena ho potuto, perché volevo fare il canto, io volevo essere celentano. A un certo punto ho capito che ce n'era già uno, però insomma ho cominciato a suonare pianoforte per un giorno potrei accompagnare la mia voce. Ma insomma, non, in realtà, avendo cominciato a 5-6 anni, non mi ricordo di me stesso senza il pianoforte sotto le dita. Cosa succede se per esempio un giorno non suoni? Tanto per capire la vita. Ti ricoverano. Mi portano via. No, in realtà capita anche che io non suoni. Come giustamente mi disse un amico una volta, quando tu vuoi fare una cosa per tutta la vita, ogni tanto devi prenderti delle pause, per cui capita anche che io non suoni, che addirittura non ascolti musica. Però insomma, in generale, appunto, avendo iniziato così presto e avendo iniziato a 15 anni a suonare dal vivo e essere pagato, anche se poco all'epoca, non ho mai immaginato un mestiere diverso. C'è un momento in cui tu hai bisogno di sentire altra musica, e quale musica ascolti se non il jazz? Altra intendi rispetto a quella che faccio io? Sì, rispetto a quella che fai tu, rispetto al jazz. Praticamente sempre, nel senso che quando non sto suonando ascolto la musica degli altri, altrimenti sarebbe una forma estrema di egocentrismo o totale chiusura rispetto al mondo. Io sono un grande appassionato di tutte le musiche, poi vado a periodi, ho un larghissimo periodo di amore per la musica brasiliana, perché la trovo poetica, intensa e semplice, che è quello che uno vorrebbe sempre raggiungere quando suona. E invece il tuo musicista classico più amato? Il musicista classico più amato? Guarda, dovrei dire Gershwin, perché abbiamo appunto registrato un disco insieme al maestro Shai Li, e anzi dico Gershwin, anzi facciamo così. Avevo iniziato a distinguere, invece dico Gershwin. Sì, sì. Invece l'artista rock, così vediamo un attimo. Porca, domande secche. L'artista rock certo. Chiamato Frank Zappa, sicuramente, però subito dopo Robert Fripp, il chitarrista di King Crimson, sono due amori enormi, due persone totalmente diverse, ma Zappa in particolare per l'ironia, anche pesante a volte, e per l'amore sconfinato che aveva per tutte le musiche, tanto da metterle quasi tutte in ridicolo e scherzarci sopra. E invece che cosa pensi del panorama italiano? Beh, che piove un po' troppo quest'estate, se è di questo panorama che parli. E invece musicalmente parlando, un po' troppo ancorato ancora a questa musica melodica, oppure trovi che ci sono gruppi giovanili che invece vale la pena seguire? Allora, aspetta, se parliamo di pop e rock, io ne so quanto un ascoltatore medio, ho le mie passioni, ma e credo che onestamente ci siano un sacco di cose interessanti che non sono certo quelle che si vedono al famoso inglorioso Festival di Sanremo o a X Factor. Però se parliamo di jazz in particolare, invece c'è una grande vitalità, perché nel campo del jazz noi in Italia siamo stati un po' indietro per motivi storici, nel senso che da noi il jazz sotto il fascismo non si poteva neanche ascoltare essendo musica americana, quindi i francesi e gli scandinavi ci hanno preceduto, ma adesso stiamo tornando alla ribalta. Infatti tu hai ricordato poi questi dischi che venivano sentiti durante il fascismo, anche quelli lì dello swing, no? Dove Benny Goodman veniva, mi sembra che si chiamava Beniamino, non so come. Buon uomo. Louis Armstrong, Luigi Braccioforte, poverino. Sì, ma quello, guarda, anche nei manuali di storia della musica, non in quelli su cui ho studiato io, perché sono giovane, però nei manuali di storia della musica ci sono queste orribili italianizzazioni tipo Ludovico van Beethoven, Giovanni Sebastiano Bach, che urlano vendetta, in effetti. Sì, sembra un po' quello che tu descrivi come un film di Pupi Avati. Ecco, Pupi Avati è un po' colui che ha dato piano piano, no? Un contributo diciamo così, all'amore per il jazz, per lo swing in Italia. Tu ti riconosci nei suoi film? Beh, non in tutti, per esempio c'è Zeder, dove la gente muore perché c'è un cimitero, perché la casa è stata costruita su un cimitero, quindi no. Però ci sono dei film in cui lui parla di jazz in effetti con affetto e molta nostalgia. Pupi Avati in generale parla del jazz di una volta, di quando lui era giovane, il jazz che avrebbe voluto fare da clarinettista e che non ha potuto proprio per i motivi suddetti, che non si poteva campare di jazz all'epoca, ma come lui altri, pensa che non so, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi, Trovaioli, ma anche Piero Angela, per esempio, avrebbe voluto fare pianista di jazz. Vi faccio una rivelazione? La sapevi questa? No, non la sapevo. Piero Angela era nella Torino degli anni 40-50, si faceva chiamare Peter Angela ed era assolutamente uno dei pianisti più in voga. Poi vinse un concorso alla Rai, andò a fare l'inviato a Parigi e siccome col jazz non si poteva campare, lasciò perdere. Però per dire, Pupi e come lui tanti altri fanno parte di questa generazione sfortunata rispetto a noi, che non ha potuto vivere la propria passione. Per fortuna poi ha fatto del gran cinema, e Piero Angela ha fatto del gran giornalismo, e quindi hanno messo il talento da qualche altra parte. E Stefano Bollani ha fatto il grande pianista di jazz. Senti, la canzone a cui sei più affezionato di quelle tue? Io non amo molto i miei brani, ammetto, cioè li scrivo e poi non mi piace suonarli, preferirei che li suonassero gli altri, perché trovo sempre che siano sempre molti gradini sotto rispetto a quelli che ho a disposizione sfogliando la storia della musica. Però ho un amore perverso per una imitazione, nel senso un falso che io ho scritto per Fred Buongusto tanti anni fa, che si chiama Mafalda, che è una finta canzone di Fred Buongusto che io continuo a amare perché mi sembra riuscita ed è un omaggio anche affettuoso a quel modo di cantare, di sedurre di una volta. Allora, noi ringraziamo intanto Stefano Bollani, che questa sera è alla Versiliana con i Visionari. Abbiamo sentito, ci ha fatto grazie intanto per la lezione un pochettino che ci hai dato e soprattutto di andare a sentire questa sera o di andarla a sentire in altre occasioni, proprio per capire i meccanismi del jazz, i meccanismi sconosciuti dell'improvvisazione, li potremmo definire così. Sì, e poi alla fine ti dirò, se poi uno non li capisce, l'importante è che se la goda e si sia divertito. Grazie Stefano. Grazie a voi. Possa essere dannato se non ti amo. E se così non fosse. torniamo alla Magna Grecia Teatro Festival, dove questa sera a Lamezia c'è uno spettacolo molto importante. Intanto diamo di nuovo il benvenuto a Summertime a Elisabetta Pozzi. Salve, benvenuta io e grazie a voi. E poi vogliamo lanciare questo spettacolo Cassandra o del tempo divorato, un viaggio addirittura da Euripide a Christa Wolf. Beh, ancora più avanti direi, perché sì, addirittura da Omero fino a Jean Baudrillard e Massimo Fini. È un testo che io ho elaborato un po' da sola, nel senso che ho messo insieme un po' i pezzi di quello che era stata la mia avventura nel teatro classico di tanti anni, e però poi ho chiesto a Massimo Fini appunto di darmi una mano a elaborare qualche cosa che avesse a che fare con una Cassandra dei giorni nostri, quindi sulla modernità. E quindi in un'ora di spettacolo, devo dire molto forte, poi tutto accompagnato anche da musica e anche della danza, io faccio un viaggio nella vita, in questa strana personaggio che è Cassandra, che appunto parte da un'antichità, sicuramente parte da Omero, e arriva ai giorni nostri senza soluzione di continuità, cioè non c'è un vero passaggio, non si percepisce, semplicemente lei vive in un tempo sospeso tra passato, presente e futuro, e quindi legge nei segni dell'epoca in cui passa tutto quello che potrebbe accadere. Ed è anche un modo mio di mettermi un pochino in gioco rispetto a dei temi che io sento tantissimo privatamente, che però forse mi sembra un momento anche di gridare pubblicamente. E devo dire che la soddisfazione incredibile è che il pubblico si ipnotizza su queste parole, che sono meravigliose ovviamente, perché ripeto, cioè, da Euripide appunto, Eschilo, anche Christa Wolf certo, fino però ad arrivare a questo grido sulla modernità, no? Su qualche sbaglio madornale che si è fatto e si sta facendo, che ci potrebbe portare davvero a una conclusione drammatica in fondo. Ecco, il pubblico si aggancia, si ipnotizza e la cosa incredibile è che mi ringrazia alla fine dello spettacolo di aver dato voce a un'inquietudine che in qualche maniera aleggia, no? Oggi, in quest'epoca. Ecco, sì, infatti tra i brani che tu leggi c'è anche The Wasteland di T.S. Eliot. Beh, no, io non leggo, è proprio uno spettacolo vero e proprio. Comunque no, c'è anche T.S. Eliot. Che ho cucito insieme io, dove non c'è nulla di letto, anzi sono personaggi, sono profondamente proprio interpretati, io divento anche Agamennone a un certo punto, Clitennestra, poi ritorno a essere Cassandra, una Cassandra che ripeto viaggia un po' in un tempo sospeso e arrivo a dire alcune cose appunto di Baudrillard, e il finalissimo l'ho voluto dare appunto a Eliot, perché in questo visione catastrofica, no? di questo futuro strano che noi abbiamo ipotecato, dice lo stesso Fini e io ovviamente, lo abbiamo ipotecato, un futuro che facciamo come se fosse, non sappiamo che cos'è il futuro, in realtà lo creiamo noi, no? Però al finale io volevo dare, come dire, un momento di sospensione d'altro genere. Il finalissimo di Terra Desolata è Spunta l'alba, no? Un nuovo giorno si prepara al calore e al silenzio, e il vento dell'alba al largo sul mare in crespa e scivola, io sono qui o là o altrove, nel mio principio è la mia fine. Che cosa possiamo ricavare da Cassandra? Cioè, è sempre stata una figura controversa, poi Christa Wolf ce l'ha fatta un po' amare, perché in questo diario che lei scrive quando è già prigioniera e descrive poi questo suo amore per Enea, no? Abbiamo visto una Cassandra diversa. In che cosa può essere oggi testimone? Guarda, io la Cassandra ho preso in prestito delle parole della Wolf, perché sicuramente è proprio la Wolf che me l'ha fatta amare in un altro modo, mi ha fatto leggere l'altra Cassandra, no? Io ho preso in prestito queste parole che hanno a che fare con la sua visione lucida, lucidissima di quello che stava accadendo a Troia e anche dopo Troia, anche per la casa degli Atridi. Diciamo che ho pensato a questa Cassandra così come lei, come la Wolf, me l'ha consegnata, quindi una donna che proprio perché conosce le condizioni del presente e il proprio passato, così lei può leggere il futuro, no? Cioè questo è fondamentale nel personaggio di Cassandra, al di là ovviamente del suo rapporto mitico con Apollo, che in questo caso nel nostro spettacolo viene soltanto così nominato, poi c'è questa figura di Alla Yamanouchi, che è un mimo giapponese, un danzatore, che ogni tanto lo riecheggia, no? Quindi si intravede un Apollo però ormai finito, un Apollo ormai assolutamente senza più potere realmente su di lei, perché che cosa serve a Cassandra se non la propria lucidità e la lettura di quello che sta accadendo in quel momento e la coscienza di quello che si è stati per poter predire il futuro. Quindi in qualche maniera si dice non ci sono più gli dèi sicuramente, basta una lucidità, basta vedere, no? Perché continuiamo a non voler vedere. Tutti potremmo essere Cassandra in realtà, lo siamo in realtà tutti, ma cancelliamo continuamente, no? Perdiamo la volontà di essere presenti, di vedere, di essere un po' lucidi. Quindi e questo se... poi, ecco. Cioè, giustamente lei dice, ma come? 4 volte lì sulla soglia inciampò il cavallo, no? 4 volte nel ventre si udì suono d'armi, ma noi ciechi insistiamo, impazienti e incoscienti, no? Quindi tiriamo dentro il cavallo nonostante fosse chiarissimo che c'era dietro qualche cosa, era un inganno. E su questo tema proprio dell'inganno io porto Cassandra ai giorni nostri, parlando di che cosa è stato, qual è il cavallo di Troia che noi abbiamo intromesso nelle nostre mura di una grande civiltà occidentale. C'è stato un cavallo di Troia che noi abbiamo intromesso, un grande falso dono. E svelo attraverso le parole, ripeto, di personaggi, di filosofi, di Baudrillard, Massimo e anche in parte mie, quello che secondo ovviamente noi è il cavallo, appunto, cioè il falso dono che ci è stato portato nelle mura e che in qualche maniera ci sta distruggendo come esseri umani, come civiltà. Quindi ecco, è un ribaltamento di quello che è la figura di Cassandra, che veniva poi vista come una figura che portava sventura, no? Perché presagiva la sventura. Esatto. Invece la sventura accadrà perché noi ci rifiutiamo di vedere quali sono i segni premonitori. Sì, e sì, questo nella storia purtroppo è avvenuto, se noi pensiamo al Terzo Reich, è avvenuto tante volte, no? Sì, è già accaduto tante volte, infatti è per quello che i segni, no? Bisognerebbe aver imparato a leggerli, essere ancora coscienti, si potrebbe essere già diventati, in realtà non è così semplice. C'è un passo molto interessante in un libro di Massimo Fini in cui racconta di uno degli ultimi tsunami avvenuti intorno alla Thailandia. In tutta questa zona quasi tutte le coste sono state distrutte, rase al suolo con centinaia e migliaia di morti. C'era un luogo dove ancora vivevano vive tuttora una tribù che non si è in qualche maniera non ha accettato, diciamo, l'invasione, se così si può dire, no, dell'Occidente, e quindi è rimasta semplicemente una terra tribale, eccetera. È stato l'unico pezzo di terra che non ha subito morti, perché gli uomini hanno sentito, gli animali hanno reagito, gli uomini hanno guardato gli animali, hanno sentito che stava accadendo qualcosa e sono tutti rifugiati sulla cima della montagna. Non è morto nessuno lì e a pochissimi chilometri di distanza sono morti tutti mentre facevano le fotografie con il cellulare, no? E questo forse la dice lunga anche su quello che ci stiamo perdendo, quello che ci siamo perduti, l'incapacità proprio di ascoltare le cose che non... C'è stato un tempo in cui ci salvavano. Quindi insomma il pessimismo della ragione, no? Contro magari il vacuo ottimismo quando invece non è il caso. Allora, abbiamo sentito questa lezione su Cassandra, noi ringraziamo come al solito Elisabetta Pozzi, brillantissima sulla scena e anche fuori la scena, quando ci spiega il percorso che poi porta uno spettacolo, che è sempre un percorso interiore. Cassandra, o del tempo di questa sera al Magna Grecia Teatro Festival, alla Lamezia, poi sarai a Segesta l'11. Poi l'ultima piazza è il 13 a Casignana, sempre in Calabria. E purtroppo poi io devo lasciare perché pochi giorni dopo comincio una nuova avventura, che è un'Electra di Hofmannsthal per il Teatro Olimpico di Vicenza. Che andrà in scena quest'inverno, questa Electra? Andrò in scena con l'Electra, sì, e anche con Tutto su mia madre, perché riprendiamo anche Tutto su mia madre. Quindi è una stagione molto piena, molto... Che avete molto fatto divertente. L'anno scorso all'Eliseo? Sì. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto 2 settimane all'Eliseo e quest'anno ci tocca, se così si può dire, una gran parte d'Italia che non avevamo visitato l'anno scorso. Ciò vuol dire che lo spettacolo è stato apprezzato. Molto carino, io l'ho visto personalmente. Che era bello, sì. Pur essendo, ecco appunto, è un film portato in teatro, però curioso. È talmente originale, no? Proprio scritto in un altro modo, poi con dei grandi interpreti, a mio avviso, dico, a parte me, non posso dirlo. Io, ma la Eva Robbins. Cioè, Eva Robbins è molto brava. Allora, Elisabetta, quindi insomma, Cassandra e poi molto altro ancora. Noi aspettiamo sempre di sentirti sul palcoscenico. Questa sera a Lamezia sarà uno spettacolo abbastanza toccante. Grazie. Io vi ringrazio come sempre. Io, Cassandra la veggente, prigioniera di guerra, di Agamennone il greco, vincitore di Troia, la mia terra. Troia, la mia terra. Sotto quella porta sono passata, verso le tenebre, verso il macello, dal cui fondo non fiotta più il sangue. Come sangue io sento scorrere nelle mie vene il tempo, sgorga dalle ferite ancora aperte. Si coagulano il passato col presente e dentro ai grumi io leggo ancora il futuro. Questo tempo inesistente che solo noi creiamo, un parto della nostra mente. Come non vedere il futuro? Se hai il coraggio di vedere le condizioni del presente e conosci il tuo passato. C'è calma quassù, il tempo è lento. Come durano poco, non solo gli uomini, ma anche le statue, le pietre. Rovine, rovine, guerra su guerra, terremoti, incendi, saccheggi e infine la calma delle rovine, tranquillizzante, consolante, eterna. Questa sera a Veglia Teatro alle ore 21 va in scena un'Iliade un po' particolare, dove Gianluigi Tosto interpreta un one man show, tutti quanti personaggi. Io leggo, interpreta l'ira di Achille, la superbia di Agamennone, l'ardore di Patroclo, l'eroismo di Ettore e il dolore di Priamo. Insomma, è veramente un'Iliade, eh? Sì, c'è tutto, non ci si fa mancare niente. Beh, diciamo, è una narrazione appunto un po' alla maniera degli antichi Aedi, anche se non c'è alcun intento di ricostruzione filologica di come un Aedo dell'epoca narrava questa storia. La sensibilità è del tutto moderna, però è tutto affidato alla voce di un solo attore narratore che si accompagna peraltro con degli strumenti musicali suonati dal vivo, quindi non c'è un musicista a parte che fa una colonna sonora durante la recitazione, ma è proprio l'attore stesso, che sarei io, che mentre recita si accompagna con questi strumenti, che quindi diventano in qualche modo anche parte della drammaturgia stessa dello spettacolo, creano le atmosfere sonore ed emotive sulle quali la narrazione poi va avanti. Sempre io leggo il comunicato molto preciso, perché così vediamo che le mazze di ferro ritmano le cruente battaglie tra i due eserciti, il gong annuncia l'intervento decisivo degli dèi, i campanellini indiani assecondano l'emergere dal mare di Teti, la madre di Achille. Insomma, c'è un po' di movement, un po' di movimento. Ma c'è una ricerca musicale che è cominciata con l'Iliade nel mio percorso, perché l'Iliade è uno spettacolo nato nel 2001, proprio all'inizio del 2001, quindi oramai sono 10 anni che lo porto in giro, e poi è continuata questa ricerca con Odissea, con Eneide, che saranno fatti fra l'altro appunto nei giorni immediatamente successivi, sempre a Velia, e quindi è una ricerca musicale che si è sviluppata con strumenti e soprattutto strumenti un po' particolari, sonorità appunto, cioè non è lo strumento inteso nel senso melodico, è proprio la rumoristica, se così possiamo dire, dell'oggetto anche un po' particolare, che quindi è anche elemento di scenografia, e questi oggetti sonori provengono un po' da tutto il mondo, anche se non è che io sono stato in tutto il mondo, li ho trovati spesso anche vicino in Italia. È molto difficile prendere di questi poemi, che sono enormi, prendere dei momenti particolari. Quanto tempo ci è voluto per costruire questo spettacolo? Beh, ognuno di questi spettacoli, di questi tre spettacoli, diciamo che ha richiesto, diciamo, un annetto di lavoro mentre facevo anche altre cose, però le difficoltà è stata proprio quella di fare una riduzione che raccontasse la storia, perché, come dire, l'intento è che chi non conosce il poema comunque segue una storia dall'inizio alla fine, non è che si dà per scontato che il pubblico conosca i fatti così famosi per tanta gente, ma per altra no, di questi poemi. Quindi da un lato si cerca di seguire un filo narrativo ben preciso, con un inizio, uno svolgimento, una fine. Ovviamente per fare questo poi bisogna fare delle scelte dolorosissime, tagliando delle parti meravigliose di questi poemi. Nell'Iliade sicuramente ciò che mi è dispiaciuto tagliare maggiormente è tutta la parte dell'Olimpo, cioè di quello che succede sull'Olimpo. Ci sono alcuni brevi interventi necessari degli dèi per far andare avanti la storia, però ho scelto di seguire il filo fondamentalmente dell'ira di Achille in questo caso, e quindi gli avvenimenti strettamente collegati a questo discorso dell'ira di Achille, fino alla, quindi dalla litigata con Agamennone all'inizio, all'invocazione alla madre Teti, poi ti passa per le battaglie fino ad arrivare al combattimento finale con Ettore, che risolve, diciamo, anche un po' le sorti della guerra. Però in questo ovviamente è terribile, si deve tagliare delle scene di una bellezza straordinaria, ma bisognerebbe fare altrimenti uno spettacolo di 5 ore come minimo. Avendo tu attraversato tutti e tre i poemi e avendo interpretato nell'Iliade, ho dato attenzione all'ira di Achille, no? Mm-hmm. Nell'Odissea ovviamente il protagonista è uno, quindi è già più facile, sì. E nell'Eneide anche c'è, cioè, questa Enea che emerge, sì, pian piano, eccetera. Ma so che è una domanda banale, però alla fine qual è quello che per te è più vicino a come sei tu di questi eroi? È difficile rispondere a questa domanda, sono tutte quante situazioni in cui ci si può sicuramente ritrovare, e credo che sia il fascino di questi poemi e il fascino anche di questi spettacoli che io da tanti anni porto in giro, richiestissimi ovviamente anche nelle scuole, ascoltatissimi con grande attenzione dai ragazzi, proprio perché io credo che abbiano questo fascino del potersi riconoscere. Sono storie, grandi archetipi di personaggi e di situazioni nei quali è quasi impossibile non riconoscersi. Gianluigi, però diccelo, sì, quando tu facevi il liceo, come tutti i liceali, ti sei identificato in Ettore, nessuno mai si è identificato in Achille, dai. È vero, è vero. questo bisogna dirlo. Cioè, no, è sempre vero. Piaciuto più Ettore, l'eroe perdente, però onesto, cioè, questa, sì, figura. Sì. No? Allora, tanto per saperne di più, noi consigliamo a tutti di andare a Velia questa, sì, sera, dove inizia Gianluigi Tosto questo bellissimo viaggio che ci accompagnerà anche domani e dopodomani per l'Odissea e l'Eneide. Esatto. Degli spettacoli monologhi, anzi, dove Gianluigi entra ed esce da quelli che sono i sentimenti di questi grandi eroi greci. Grazie Gianluigi. Grazie a te, arrivederci. E noi adesso andiamo a Villa Doria Pamphili a Roma per uno spettacolo un po' particolare, perché immaginate questa villa bellissima, immersa nel verde e tutto quanto, per ascoltare un'orchestra nazionale tradizionale cinese. Sì, proprio così. Quindi uno spettacolo molto suggestivo. Ce ne parla Sabina Felici, che è colei che ha organizzato questo evento. Buongiorno Sabina. Buongiorno, buongiorno. Allora, che cosa succede? Com'è questo tipo di musica e perché avete scelto questo spettacolo? Dunque, si tratta essenzialmente di uno spettacolo che si, diciamo, inserisce in un contesto molto particolare, che è l'anno della Cina in Italia, l'anno della cultura cinese in Italia, quindi è una delle iniziative che ha preso il governo cinese per promuovere la cultura cinese nel nostro paese, quindi attraverso di questo avere in qualche modo una possibilità di rafforzare i rapporti fra i due paesi. Questa è un'orchestra molto particolare, una storia particolare, nel senso che nasce nel 1960 ed è un'orchestra che si struttura soprattutto per la ricerca delle tradizioni musicali popolari, etniche, eccetera, ma anche per un livello proprio di esecuzione altissimo. Infatti è molto corteggiata, va spesso all'estero, ha fatto spettacoli, appunto concerti in sedi molto prestigiose, e in questo caso noi, diciamo, come agenzia che si occupa di promuovere molto questi eventi di cultura cinese per l'anno della cultura cinese come agenzia Viva Group, in collaborazione con l'ambasciata cinese e l'ufficio culturale, abbiamo organizzato questo concerto, che è l'ultimo concerto dell'estate romana che si svolgerà a Villa Panfili, cioè l'ultimo evento di estate romana. Ecco, ma io poi leggo che questa orchestra nazionale tradizionale cinese è composta da ben 74 musicisti con strumenti tradizionali cinesi e strumenti classici di tradizione occidentale. Quindi è stata, appunto, come dicevi tu, anche fondata nel 60, ed è una cosa un po' particolare, perché io ti dico un po' i dubbi, no, da occidentale, che la musica cinese possa essere un po' ripetitiva, però vedo che loro hanno anche inserito la nostra musica, sì, perché c'è musica tradizionale di flauti, dalla Turandot addirittura di Puccini. Esatto. E poi due brani proprio di origine, insomma, diciamo di ispirazione occidentale, perché poi proprio per l'utilizzo di strumenti così particolari come sono i loro strumenti a corda, a fiato, tradizionali, hanno necessità di adeguare gli spartiti a, insomma, a performance leggermente diverse dai brani originali, e quindi anche questi, diciamo, riferimenti ad autori di musica occidentale classica sono poi in qualche modo interpretati dalla loro, diciamo, tradizione di strumento, ecco. Poi leggo anche due brani tradizionali di fiati, e addirittura Johann Strauss, quindi sì, insomma, un po' particolare. Sì, è un, diciamo, un melting proprio di origine diversa, però è molto interessante intanto il modo in cui questi musicisti cercano di interpretare la cultura occidentale, e anche attraverso questa esecuzione con strumenti particolari, avvicinandosi moltissimo alla partitura originale. Ma poi è soprattutto interessante il fatto che loro vogliano mettere insieme delle tradizioni diverse. Insomma, io con la mia, diciamo, agenzia mi occupo molto di mediazione culturale, e quindi di mettere in comunicazione i due mondi. Questo è un esempio, io direi, di grande livello proprio di comunicazione interculturale, e quindi a noi, insomma, fa proprio piacere avere in qualche modo l'organizzazione di questo evento, perché significa anche portare un contributo, diciamo così, di conoscenza di una cultura così distante a un pubblico che magari fino ad ora non ne ha avuto, insomma, percezione né esperienza. Questa, insomma, è una delle cose che ci fa più piacere. Sabina, quante volte sei andata in Cina? Non le ho mai contate, però adesso sono appena tornata da un viaggio, devo dire, molto bello, molto interessante. In parte era anche per mettere a punto alcuni aspetti dell'organizzazione di questo evento, in parte era per promuoverne altri, perché diciamo, lo scopo di questa grossa iniziativa interministeriale, intergovernativa, che c'è stata, diciamo, è iniziata in ottobre da parte della Cina, ma insomma con un'accoglienza da parte del nostro governo e delle varie strutture ospitanti molto forte, che è stato l'anno della cultura cinese in Italia, non è ancora finito, ma insomma siamo alla fase finale, è proprio quella di promuovere gli scambi in questo ambito culturale. E quello che a me piace moltissimo, insomma, di questo particolare evento è che diciamo, il livello di esecuzione e preparazione degli artisti è una garanzia in qualche modo, perché è molto alto, hanno un'esperienza incredibile, e quindi, insomma, portare uno spettacolo di questa qualità sicuramente lascerà dei semi, insomma. Allora, per chi è un po' più curioso in questo anno Italia-Cina, come ci ricorda Sabina Felici, e vuole andare ad ascoltare la musica tradizionale cinese, ma anche la nostra Turandot di Puccini, Villa Doria Panfili a Roma, questa sera alle 21:15. Grazie. E noi andiamo questa sera anche al Forte Malatesta di Ascoli Piceno, che ospita un appuntamento di Museo Il Palcoscenico Marche, un memorandum di Stefano Artissunk. Buongiorno Stefano, che cosa succede? Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, memorandum È un percorso che noi faremo all'interno dei musei, fa parte appunto di questa piattaforma un po' più ampia che si intitola Musei Palcoscenico Marche, in collaborazione tra la Regione Marche e l'AMAT e i musei appunto delle Marche. Memorandum è una sorta di riflessione, una riflessione sul patrimonio della memoria della nostra società. In questo caso il luogo, il museo non è solo un contenitore di storia, ma in realtà diventa in questo caso con Memorandum, con questa performance, un'entità carica così di risonanza, di emozioni e di pulsioni che fanno parte un po' della memoria collettiva del nostro esistere in una nazione, in uno Stato. Ecco, ma perché avete scelto proprio il museo? Ma il museo è perché? Perché il museo è un luogo che non solo deve rappresentare un percorso del passato, ma in realtà deve in qualche modo far rivivere delle emozioni oggi. Il museo non è solo un contenitore di un percorso del passato, deve in qualche modo rappresentare la memoria e lo spirito del nostro tempo. E questo, in questo caso, il museo ci aiuta perché già la parola museo sembra una parola che sa di muffa, sa di polvere. In realtà è quello che un po' vivono i musei italiani, quindi c'è una tendenza oggi a cercare di farli rivivere, di allungargli la vita e di soprattutto di fargli emanare delle emozioni. Questo era importante. Ecco, io leggo: la pièce teatrale si sviluppa come una sorta per ricostruire attraverso l'utilizzo di suoni, luce e musica un'attendibile mappa dei paesaggi mentali. Ecco, quello che io chiedo a te, che sei il regista poi di tutto questo memorandum, di che cosa si parla proprio specificatamente? Tu hai parlato di memoria storica del nostro paese, ci sono dei riferimenti a degli eventi storici? In realtà è una sorta di purpurì, dei momenti, diciamo, non c'è un percorso temporale, il percorso è più emotivo. Soprattutto si parte da un famoso viaggio che Giovanni Morelli compie, questo che era un membro del governo del primo Stato italiano, del primo governo italiano nel 1861, Giovanni Morelli compie un viaggio alla ricerca di opere che dovevano in qualche modo rappresentare il patrimonio artistico italiano, perché oltre a creare un'Italia bisognava anche in qualche modo cercare di capire che cosa doveva rappresentare l'Italia attraverso l'arte. Quindi ci saranno dei momenti, diciamo, che ricordano un po' questo percorso, questo viaggio di Giovanni Morelli e insieme a un altro critico e storico del tempo, che era Giovanni Battista Cavalcaselli, e poi si entrerà dentro una sorta di percorso. Ci saranno anche delle immagini, ad esempio le immagini di Aldo Moro, della cattura di Aldo Moro, della morte, della strage di Bologna, cioè quei momenti che in qualche modo hanno segnato la memoria così sia politica, sociale e anche culturale del nostro territorio. Quindi si parte da questo lungo viaggio di questi due critici alla ricerca di un'identità artistica per poi cadere piano piano in un viaggio nella memoria anche politica e nella memoria anche della cronaca che rappresenta un po' il nostro essere italiano. E quindi oltre a Moro, oltre alla strage di Bologna che io ho inserito, oltre a Borsellino, oltre a Falcone e Borsellino, che ci sono anche che in qualche modo rievocano questo loro essere italiani, questo loro creare una nazione libera anche da una corruzione. Si cade tranquillamente anche nelle lettere dei condannati a morte della Resistenza. Certo, non è un percorso temporale che ha una sua logica, è un percorso difficile raccontarlo, però è un percorso più emotivo, sì. Sono dei flash emotivi che colpiscono in qualche modo, in qualche modo legano e uniscono quel filo che sta nella profondità della nostra coscienza e che in qualche modo uniscono il passato col presente, il presente col passato, cioè questi sbalzi emotivi che magari lì per lì possono creare uno stato di disagio allo spettatore, ma in realtà è la cosa che si vuole raccontare, questa essenza che è alla base della nostra Costituzione italiana, e cioè quella di sentirci liberi in uno Stato democratico. Ti ringraziamo Stefano, perché abbiamo capito che è un viaggio molto molto particolare, e soprattutto ovviamente non è un percorso teatrale, è un viaggio che si fa in teatro, quindi ci sono dei flash storici, ma non è che ci debba essere per forza, no, tutto quanto la cronologia perfetta. Memorandum questa sera al Forte Malatesta di Ascoli Piceno, con la regia di Stefano Artisung. Ricordo anche gli altri attori: Stefano De Bernardin, Laura Graziosi, Stefano Tosoni, Giampaolo Valentini. E tutti quanti per questo memorandum, questo viaggio nella nostra nazione. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. E noi adesso andiamo a Serrada di Folgaria, nell'ambito delle manifestazioni Serrada Futurista. E abbiamo il Teatro di Serrada, pietre a confronto con Armando Valle e Mariano Giannotti. Ne parliamo con Stefania Schir. Che cosa succede questa sera a Serrada di Folgaria? Questa sera ci sarà uno spettacolo particolare, diciamo che il tutto è nato cercando di unire la tradizione degli scalpellini di Serrada, una tradizione ormai secolare, e forse un materiale molto più famoso che la pietra locale, il porfido che viene estratto dalla Valle di Cembra, un'altra valle trentina. In questa particolare serata parleremo di scultura locale, di sculture particolari, quali possono essere le fontane, che ad esempio vengono realizzate da questi maestri scalpellini della Valle di Cembra, ispirati a progetti importanti. Tra di essi ad esempio ce ne sono alcuni di Mario Botta, l'architetto del Mart di Rovereto. E abbiamo pensato di unire la scultura futurista, proprio perché oltre ad aver ospitato gli scalpellini, Serrada è una località turistica nota per aver ospitato in passato Fortunato De Pero, che era un artista trentino, un artista futurista, e che spesso, ispirato dalle architetture locali, li ha poi tradotte in quelle che sono le opere più famose. E oltre a questo, comunque, abbiamo cercato di proseguire questo rapporto nei prossimi giorni, tant'è che ci saranno degli artigiani artisti che proporranno le proprie creazioni, lavorandole anche in loco. E poi ci sarà uno spettacolo davvero molto insolito, uno spettacolo particolare da parte di un gruppo lombardo, i Silence Teatro, che vestiti quasi fossero appunto delle pietre vive, faranno rivivere a tutti quanti gli spettatori la magia, diciamo, del mondo della pietra, quindi come viene lavorata, come viene anche vissuta, se vogliamo, dagli artigiani. Certo, non dobbiamo dimenticare che comunque è un materiale duro, quindi difficile da lavorare, che implica chiaramente anche la fatica dell'uomo. Stefania, però io leggo pure che c'è una taverna futurista con la possibilità di degustare l'aperitivo futurista e di apprezzare anche oggetti ispirati a questo movimento. A questo punto ci devi dire che cosa si mangia nella taverna futurista. Non si mangerà pasta, perché era tanto odiata da Marinetti. Esatto, sicuramente non si mangia la pasta. E vi sono immancabile, abbiamo pensato al Campari, proprio perché di De Pero è la pubblicità e la bottiglietta, la famosa bottiglietta del Campari. E poi ci saranno dei coloratissimi stuzzichini. Oltre al cibo, oltre alle bevande, ci sono anche delle opere degli artigiani artisti della zona F, la zona futurista di Rovereto. Si spazia dalla fotografia alla ceramica, a degli arazzi, a dei libri bullonati come quelli famosi di De Pero, proprio per creare all'interno di questo ambiente voltato, un antico vault, così lo chiamavano appunto i nostri avi, dove all'interno si possono riscoprire questi coloratissimi e curiosi oggetti. Allora, ricordiamo, a Serrada di Folgaria, che diventa una serrada futurista, questa sera pietre a confronto con Armando Valle e Mariano Giannotti, ma per tutta la settimana fino al 15 agosto c'è anche la taverna futurista, la possibilità di degustare l'aperitivo futurista e soprattutto di scoprire come come l'artigianato locale degli scalpellini che scalpellano il porfido si possa fondere a De Pero, che appunto andava a Folgaria a trascorrere, immagino, le sue vacanze, giusto Stefania? Esatto, sì, sì, sì, aveva scritto anche una poesia in cui descriveva le sue emozioni durante il periodo invernale, dove tutto era avvolto dalla neve, e poi invece il periodo estivo, dove l'aria era sicuramente più fresca, è sicuramente più fresca della città di Rovereto, dove appunto viveva durante l'anno. Grazie Stefania. Grazie a voi, arrivederci, vi aspettiamo a Serrada. E anche per oggi è tutto, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione, l'appuntamento è a domani.